Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Stiamo apparendo in video, ormai quasi tutti. Prima di sparire in TV siamo apparsi tutti. E invece qui siamo tassativamente in radio, sia chiaro, ascoltatrici e ascoltatori. E il personaggio che tra poco vi presenterò è un personaggio che è diventato un fenomeno, se ricordate, nel 2007, di lì è finita la gavetta, si è creata questa mania, questo tormentone, diciamo, che adesso non voglio dire subito però, perché sapete che il rito è quello di identificarsi, prima di tutto, ancora prima di presentare il personaggio, lasciarlo identificare con tre aggettivi. E quindi quali potrebbero essere questi tre aggettivi, per ospite? Che la gavetta non è mai finita. Questo è. La gavetta non è mai finita. La gavetta non è mai finita. Non è mai finita. Vabbè, prendiamola così. Saggia considerazione, effettivamente. Come Edoardo diceva, gli esami non finiscono mai. Tu dici giustamente, la gavetta non è mai finita. E si tratta infatti di Momo. Simona Cipollone, diciamo, alias Simona Cipollone, però in arte Momo, perché è stato Totò, insomma, in sogno a indicarti questo nome, così, no? Sì, Momo. Perché è anche più semplice, sono solo due lettere. Simona Cipollone, chi è che mi ricordava, no? Ma insomma, come cognome è abbastanza diari. Particolare, sì, però Momo è un po' più incisivo, come poi te l'ha consigliato Totò, quindi... Sì, sì. Senti, ma è stato imperativo quando te lo ha indicato questo? Sì, è stato molto imperativo. Ah, sì. Ha detto: ti devi far chiamare Momo. Ah, non c'era proprio possibilità. Va bene. E di lì, circa cos'è, una decina d'anni fa è successo questo, in sogno? Beh, adesso 15 sono. 15 anni fa. Infatti, il successo, diciamo, improvviso dopo tanta cavetta, Momo, è toccato nel 2007, vi ricorderete, nel dopo festival condotto da Chiambretti. Il festival di Sanremo era condotto, quello del 2007, da Pippo Baudo. Però nel dopo festival c'era Chiambretti che aveva notato fra le canzoni, le persone che erano state escluse dalla commissione selezionatrice, questa specie di, non lo so... Ti si può definire, ti hanno definito in tanti modi, folletto, menestrella, piccolo giullare, non so, tu come Pazza anche. Pazza, un po' matterella. So. Ma sì. E perché ti ha lanciata Chiambretti, che ha un certo fiuto, cantavi questa canzone un po' stralunata, ma che ha folgorato immediatamente tutti, il pubblico e la stampa, che era Fondanella, come si pronuncia? Con la O, Fondanella. Fondanella, e mi pare che il tutto sia nata per risolvere problemi di cervicale, vero questa canzone? Assolutamente sì. Mm. E ancora li ho. Ancora ce l'hai, quindi non è servita in realtà, forza di non è stata efficace. Però è servito anche a farmi conoscere artisticamente, quindi la cervicale va bene, più in là negli anni. Quella te la tieni, vabbè. Credo, no? Però ti ha portato altra fortuna rispetto alla cervicale, sì, perché sì. Momo aveva scritto questa canzone e che comportava poi tutto un balletto piuttosto divertente, che doveva essere in realtà terapeutico, perché te l'aveva consigliato un tuo maestro buddista Wang. Indiano, no? Wang, famoso Wang, a te e una tua amica che avete deciso di seguire questo corso, e però insomma a volte viene abbastanza spontaneamente da ridere quando si seguono delle pratiche un po' esotiche a cui non siamo abituati. Sì. Viene da ridere. E ha ispirato la tua fantasia, però, questo movimento così, no, del sì, corpo. La nostra più che altro, perché era veramente divertente il giocare con questa pratica molto curativa, cioè, però noi abbiamo scherzato e è nata fuori questa Fondanella. Noi perché? Perché ha collaborato con te Alessandra Celletti, pianista sì. Classica. Quindi eravate a questo corso e poi da questa Fontanella che vi chiedeva di aprire sulla testa, probabilmente per sollevare lo spirito, no? E a voi è venuta l'idea di questa sì. Canzone. Sì, però si dovrebbe comunque anche oggi aprire Fondanella. Sì, tu continui ad aprirla questa Fondanella? Ma sì, ma meno male che me l'ha detto Wang, perché sennò è veramente una tragedia andare avanti. Con la Fontanella chiusa, con gli orizzonti chiusi, in questo senso dice, è difficile andare avanti. Sì, anche in Italia è difficile andare avanti in questo periodo, quindi si dovrebbe sempre aprire Fondanella, perché sennò è una tragedia la vita. Senti, mamma, tu sei cantautrice abruzzese d'adozione romana d'adozione. Si può dire, sì, ti senti romana d'adozione, adottata dalla capitale? Sì, ho preso anche un po' l'accento. Sì? Ma non mi pareva di sentirlo tanto, però, questo accento romano. Un po' misto. Ma perché adesso sono brava nel parlare. Poi se andiamo a cena io e te, può essere che... Che ti viene fuori qualche accento. Sì, certo. Beh, allora, lo prendo come un invito, Ma molto bene, volentieri. Bene. E sei però precisamente di Lanciano, che è un bel paese vicino Chieti, in Abruzzo, per l'appunto. Sì. Ecco, se tu dovessi dire, intanto ricordo che tu sei ritornata al grande pubblico adesso di recente con un cofanetto che comprende un libro che si intitola Stelle ai piedi, che poi è lo stesso titolo naturalmente del nuovo CD da cui abbiamo sentito un po' di un brano, no? Panoramica di un miraggio. Se tu dovessi dire però come è iniziata la tua storia, perché nel libro dove ti racconti, che è molto bello, poetico e surreale insieme, ironico come sei tu, vengono fuori anche delle cose abbastanza, come si può dire, pesanti, drammatiche, non so, fanno parte della tua vita? Sì, come della tua, credo di tutte le vite degli esseri umani. Però chi più chi meno, no? Sì. Tu per esempio scrivi: io non ho paura del dolore, come se tu l'avessi già affrontato diverse volte e avessi un po' cominciato a conoscerlo, a capire come prenderlo. Sì, è una bella conoscenza, credo, il dolore, perché fa andare avanti la vita. Cioè, senza dolore sarebbe anche inutile campare, vivere. Fa parte della nostra vita il dolore, ci fa crescere, ci fa essere migliori il dolore. Dicevamo, chi più chi meno, tutti, no? Hanno sicuramente dei momenti cupi nella vita, però tu, se dovessi, se tu hai voglia di raccontare un po' i primi anni della tua esistenza, no? Visto che qua appunto è storielle, si cerca un po', cerco di ricostruire un po' la biografia, la storia del personaggio. A Lanciano come è iniziata la tua storia? È iniziata che io sono nata all'Aquila, in un orfanotrofio, perché sono stata abbandonata. Ma non perché, non lo so perché, comunque sono stata abbandonata e poi sono arrivate queste due persone meravigliose che sono i miei genitori e mi hanno presa e sono andata a vivere a Lanciano e quindi mi reputo una persona fortunatissima. Quindi nella grande sfortuna. Sono molto fortunata. Nella grande sfortuna, insomma, di essere stata lasciata dai genitori, diciamo, naturali, così appena nata, e ha avuto la fortuna di rinascere con dei genitori che ti hanno amata tanto, no? Non succede a tutti. Sì, e come me tanti altri bimbi e persone sono molto fortunate oggi, perché ci sono persone che hanno voglia e desiderio di avere dei figli e noi abbiamo voglia di avere dei genitori, quindi è tutto qui, è uno scambio. È uno scambio, l'importante è che ci siano dei genitori e dei figli e che abbiano voglia di stare insieme. Storielle. Storiacce. Siete sempre qui e se ci siete sono ben felice, ovviamente Roberta Giordano con voi qui a Storielle e con me come ospite oggi c'è una specie di folletto pieno di poesia e un po' surreale ma con una grande saggezza di vita che è Momo, ricordate che era scoppiata, diciamo, tra la popolarità pubblica con questo tormentone del dopo Festival di Sanremo del 2007 che si chiamava Fontanella, apri Fontanella, chiudi Fontanella, che ha fatto molto ridere, che è passato di radio in radio, di TV, di sito in sito. Dopodiché Momo ci raccontavi, insomma, di un inizio di vita molto difficile, nata all'Aquila. Tu eri stata abbandonata in un orfanotrofio, ci sono stati degli splendidi genitori che ti hanno accolta, che ti hanno cresciuta, Lanciano Chieti, poi adesso sei romana di adozione. Ma dopo quel successo così improvviso, no, dicevamo, come è andata dopo? Adesso sei appena uscita con un libro e un CD, il tuo secondo CD, il primo era Il Giocoliere, questo è Stelle ai piedi. Ma subito dopo il 2007, il Sanremo, quel periodo lì, come è proceduto? È andata bene perché abbiamo suonato un po' in giro per tutta Italia, soprattutto nei teatri, e poi la cosa bella è che ho conosciuto tante bellissime persone e questo è quanto. E Non è che ho avuto queste grandi masse di pubblico, però ho conosciuto delle persone meravigliose che adesso sono amici, che poi ho questa bella cosa che io do il numero di telefono perché mi fido delle persone e quindi siamo diventati amici. E secondo me è la cosa più bella. Quindi diciamo che anche se c'è stato questa popolarità improvvisa che a volte avviene appunto e sicuramente porta tante cose buone, gratificante da vari punti di vista, poi dopo anche se magari non prosegue sempre con quella traiettoria verso l'alto, ti ha portato comunque delle cose positive, dicevi degli incontri, certo, delle amicizie, continua questa scia di una castella cometa benefica. Sì, perché secondo me poi essere tanto famosi non so quanto mi interessi. L'importante è stare bene nella vita e conoscere persone, perché se no non mi verrebbe da scrivere le canzoni se non conoscessi le persone fisicamente. Non so se... Perché sono fonte di ispirazione in questo senso, no? Beh sì, ognuno ha una propria storia, come la mia, che alla fine ho messo nero su bianco sul libro. Però ognuno ha una storia bellissima, dura, leggera, come ti pare, però è bello conoscere le persone, scambiarsi. E tu hai scritto proprio del libro che citavi, Stelle ai piedi, tra le tante cose molto, molto belle che ci sono in questo testo, dici: a volte mi chiedo chissà che strada avrei potuto prendere se le ferite non fossero diventate righe di pentagramma e le lacrime costellazioni di note. Che cosa saresti stata? Anche se poi aggiungi, ma ci sono domande che è meglio non farsi. Quindi non so ma se no, credo la che sarei diventata psicologa. Ah sì? Certo, è uguale. Dimmi quali sono delle possibili analogie tra l'essere cantautrice e psicologa. Essere cantautrice secondo me è un grande, devi avere proprio un udito perfetto. Che è l'udito del cuore? Paziente, Che è l'udito del cuore, vuoi dire? Sì, essere paziente nell'ascolto delle altre persone. Devi avere proprio un ascolto totale, perché è importantissimo dare attenzione, secondo me. E tu nel libro, prima dicevi dei tuoi amati genitori, e lo ribadisci: i miei sono angeli, non fosse stato per loro non sarei né quella che sono né dove sono. Quindi facci capire, Momo, un po' che cosa ti ha fatta diventare quella che sei. Quindi esperienze, coccole che hai avuto, magari l'illuminazione che ti può aver dato tua mamma, tuo papà. Com'è andata la storia? Eravamo arrivati a un certo punto. È andata che i miei genitori sono due persone molto semplici, ma molto belle, nel senso che la cosa più grande che mi hanno dato è l'educazione. L'educazione, proprio essere educata con le persone, questo. Che è una cosa che sembra semplice, ma non così diffusa ormai, no? Non è un luogo comune, è proprio così. No, infatti sono stata, ti ripeto, molto fortunata, perché poi sono adesso ottantenni tutte e due e sono i miei più grandi fan. Mettiamo questa parola, fan. Ci sta bene. Senti, stelle... Quindi sono tranquilla con me stessa. Stelle ai piedi, che è il titolo di questo libro e dell'album. Sì. Cosa si intende? Come tipo le ali ai piedi, qualcosa di romantico, di poetico, che ti porta un po' più in alto? Sì, significa che già siamo volati, no? E quindi hai le stelle ai piedi, ce l'hai sotto, quindi già sei in alto, tutto qui. Paura di cadere tu ce l'hai mai, Momo? Sì, perché non mi piacciono le cose chiuse. Poi che io possa volare per i fatti miei, non ho paura di cadere, perché sono cascata tante volte e tante altre volte cascherò. Però le cose meccaniche, ascensori, aerei, no? Quelle mi mettono ansia. Beh, comunque, prima dicevi la gavetta non finisce mai. Si cade prima o poi sempre. Più o meno si cade. Beh, spero non l'aereo, almeno. Parte non della vita, sì. No, di noi stessi. Sì. In aereo no, sarebbe lost. È un'altra storia quella. Ma è un'altra storia. Prima stavi dicendo che la gavetta non finisce mai, perché tu hai iniziato piuttosto presto, non nel 2007, ma almeno come minimo 10 anni prima, no? A scrivere canzoni. Sì, forse sì, poi prima. La cosa bella è che qui, in questo nuovo lavoro, ci sono 4 pezzi che sono stati scritti quando avevo 17 anni. Ah, e che sono? E le canzoni sono L'amore sale piano, appunto Autobiografia, Stelle ai piedi, Scelta di pazienza. appunto, ho finito con scelta di pazienza, perché dopo 20 anni veder pubblicate delle canzoni che hai scritto a 17 anni è bello, no? È proprio una scelta di pazienza. ne ha avuta tanta di pazienza, e poi, come dici tu, cioè, nella vita comunque si continua, si deve continuare anche ad averla. Anche perché tu scrivi, nel tuo libro, fra le tante altre cose, mi piace vivere perché non si sa mai come va a finire, no? Ah, certo, ogni minuto. E a parte scrivere canzoni, che poi lo ricordo, anche nel 1996 con Embè, con questa canzone, tu eri arrivata seconda al festival Voci Domani, che è una canzone che nel 2006, quindi 10 anni dopo, Simone Cristicchi ha portato al festival di Sanremo, è arrivato secondo a Sanremo Giovani, ha cambiato titolo, Che bella gente. Sì. E adesso tu continui a collaborare con lui, con Cristicchi? Ma siamo amici. Quindi, al di là della collaborazione artistica, l'importante è l'amicizia, no? Poi sì, se ci rincontreremo anche artisticamente, ben venga. L'importante è essere amici. Momo, che cos'è per te la libertà, se dovessi dire? È una bella cosa. Non so risponderti adesso, perché noto che l'Italia, così piccola, è molto... difficile essere in questo piccolo paese adesso. Non lo so che cos'è la libertà, non ne ho idea. È più un'aspirazione. La devo provare. Quindi tu non l'hai provata finora, la libertà? Nel mio piccolo sì, ma a grande fatica. Ho fatto grande fatica nell'essere libera, ma sicuramente farò ancora grande fatica. Non so. È vero che adori gli alberghi, Momo? Io adoro gli alberghi, li adoro proprio, ma non perché è bello che quando suoni vieni rispettato per il valore che hai, nel senso che ti pagano, vai in albergo, suoni, no? Ti senti... È una cosa molto bella questa. Ti senti coccolata, ti senti curata? Non mi sento coccolata, è come se ci fosse un rispetto per l'arte, ecco, tutto qui. Mi pare di aver sentito una volta che la tua canzone preferita, che hai definito un capolavoro, è Il Carrozzone di Renato Zero, che tu avevi desiderato, così mi pare avessi lanciato anche un appello di poterla cantare insieme. Poi è successa questa cosa? No, non è successa, però ho incontrato Renato Zero, mi ha invitata l'estate scorsa a casa sua e siamo stati 3 ore benissimo a chiacchierare. All'inizio ero imbarazzatissima, perché figurati, poi mi sono tranquillizzata perché mi ha messo lui a mio agio, e a me solo il gesto che abbia fatto nell'invitarmi a casa sua, queste sono persone grandi, ma proprio grandi e basta. È vero. Mamma, sì, che cos'è? Di umiltà, di una gentilezza unica. Non importa se canterò Il Carrozzone, l'importante è che lui abbia avuto... davvero un'eleganza nell'invitarmi, e ci siamo trovati, punto. Oh, allora, questo quindi è un desiderio che in qualche modo si è esaudito, perché al di là del cantare la canzone, conoscerlo e con questa semplicità, no? Quindi, come dicevi tu, la grandezza poi sta veramente dentro alle persone, che non hanno bisogno di ostentare importanza. Ma adesso, se io ti faccio sentire questa, che è la lampada di Aladino. Sì. E tu potessi esprimere un desiderio, Momo, adesso, che desiderio esprimeresti? Per te, per la tua vita, qualcosa che ti piacerebbe avere, ottenere a breve termine o a lungo termine? Vabbè, spero che comprino tante persone questo mio nuovo lavoro, questa è l'unica cosa che mi preme. Dici, viviamo nel presente. Ma non perché sia mio, perché è bello, punto. E se lo dice Momo, insomma, ci possiamo fidare. Grazie Momo, allora buona fortuna ancora. Ciao Momo. Ciao, grazie. Sono nata chissà da chi, che incurante mi ha abbandonata. Cresciuta adesso sono qui, legata a forti mani, che mi fanno andare avanti verso la strada serena e con tanto sole.